Azione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femmes, women, mulieres, frauen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me. Mi sembra che la prostituzione sia una specie di paradigma, che sia in qualche modo il centro stesso della condizione sociale femminile. Se veniamo spinti a un comportamento così autodistruttivo è perché la nostra società è decisa a distruggere qualcosa delle donne, a distruggere il loro io, la loro immaginazione, la loro sicurezza, la loro volontà. Kate Millett. Futuristic vision. I'm not among loony nut kicks up on no mission. I get somewhere I fit in, cause life's too short. So you could all label me weirdo, but yo, I know it's time, it's time. Negli ultimi tempi si assiste sempre più spesso al fenomeno della distorsione dei principi fondamentali del femminismo. Distorsione che spesso serve, quindi insomma, la distorsione del femminismo che serve appunto per asserire senza nessuna considerazione del contesto, dei soggetti coinvolti, delle realtà, delle diverse situazioni, qualcosa che non ha fondamento appunto nella realtà e nella vita concreta di tantissime donne. Prendiamo ad esempio il principio dell'autodeterminazione. Questo principio stava e sta forse a significare che qualsiasi donna, o meglio qualsiasi portatrice di utero, può asserire quel che vuole e quindi per questo deve trovare sostegno e dalla pratica e dalla teoria femminista? Noi crediamo di no. Forse invece quel principio sta a significare che le donne come gruppo sociale oppresso e resistente, questo per fugare ogni dubbio sull'idea che le donne per noi non sono solo vittime, ma anche vittime, e non abbiamo alcuna paura a dirlo, dicevamo che le donne come gruppo sociale oppresso e resistente devono poter scegliere ed esprimere rispetto all'idea di libertà che si può promuovere per le donne, non per la donna X e Y individuale, diciamo, come soggetto individuale portatrice di interessi economici particolari e quindi appunto individuali. E la base dalla quale si dovrebbe muovere le proprie considerazioni sulla libertà sono la realtà esistenziale e materiale delle donne direttamente coinvolte. Nello specifico, quando si parla di prostituzione, stasera parleremo di questo, dobbiamo intenderci bene su ciò di cui si sta parlando. E quindi quando parliamo di prostituzione non si sta parlando del piccolo gruppo di donne che asseriscono di voler vendere il proprio corpo per denaro, di voler sottostare alle richieste dei propri clienti, perché poi è questo che si fa all'interno di uno scambio non paritario, di volersi quindi sottomettere ai desideri del patriarcato e del capitalismo ammantando tutto questo da una magica aura di libertà. Quando si parla di prostituzione, del fenomeno sociale della prostituzione, si parla di tratta. Quando si parla della regolamentazione della prostituzione, quindi, bisogna avere ben chiare le conseguenze che questa potrebbe avere sulla stragrande maggioranza delle donne che sono loro malgrado coinvolte, cioè le vittime della tratta. Quando parliamo di prostituzione, parliamo quindi di stupro, dello sfruttamento di condizioni di povertà, dello sfruttamento di una parte del mondo, dello sfruttamento delle donne di una parte del mondo da parte degli uomini di un'altra parte del mondo. E a noi, come femministe, interessa parlare proprio di questo. Non vogliamo parlare del capitalismo in generale, perché siamo tutte e tutti sfruttate, perché tanto anche chi fa la cameriera vende il suo corpo e bla bla bla. Vogliamo parlare di questo tipo specifico di sfruttamento, che è la prostituzione. E come vogliamo farlo? Senza sovradeterminare le dirette interessate, che non sono le prostitute di alto bordo, non sono le maîtresse che hanno già le loro platee, sono le vittime della tratta, vogliamo dare voce a loro, perché è di loro che stiamo parlando quando parliamo di prostituzione. È delle bambine prostituite che stiamo parlando, è delle donne che sono state costrette a scegliere, tra virgolette ovviamente, di scendere a patti e servire il patriarcato. Iniziamo a parlare delle bambine e facciamo parlare una delle dirette interessate in un'interessantissima intervista pubblicata sul blog di Maria Di Rienzo, che esordisce così. L'età delle bambine vendute e trafficate a scopo sessuale diventa sempre più bassa, il loro numero sempre più alto. Dagli attuali 21 milioni di persone costrette al lavoro forzato, e cioè che per coercizione o inganno svolgono un lavoro che non possono lasciare, 4 milioni e mezzo sono bambine e donne vittime di sfruttamento sessuale. E, agenzia Donne, ILO International Labor Organization. In India l'età media delle prostitute nei distretti a luce rossa va dai 9 ai 13 anni, dati HAPNE, Women Worldwide. Circa metà delle violenze sessuali in tutto il mondo sono dirette a femmine minori di 15 anni, quindi si abusa di circa 6.000 bambine al giorno. UNICEF, Right to Education Project. Una delle ragioni avanzate da vari commentatori per spiegare questi dati è l'effetto della crisi economica nei paesi poveri. Sicuramente la miseria gioca un ruolo importante in tali faccende, ma la vicenda di Minh Dang, statunitense di origine vietnamita, suggerisce che le cause principali sono davvero altre e che molto di quel che c'è scritto all'inizio di questo articolo accade nelle nostre case o in quelle a noi vicine. Minh Dang, oggi 28enne, è un attivista contro il traffico di esseri umani dell'ONG Don't Sell Bodies, non vendete corpi umani. Suo padre ha cominciato ad abusare di lei quando di anni ne aveva 3. Quando ne ebbe 10 fu portata a lavorare, qui ovviamente il virgolettato è d'obbligo, in un bordello dove se non doveva andare a scuola poteva essere lasciata per settimane intere. Allevata nel culto di dover servire i suoi genitori per lungo tempo, Minh ha pensato che la prostituzione fosse uno dei suoi compiti. Mia madre metteva annunci in vietnamita su giornali e riviste. Mio padre mi portava in quelli che erano caffè di facciate e bordelli nel retro. Non ero l'unica bambina ad essere venduta in quei posti. I genitori di Minh Dang non erano miserabili, ma grazie alla continua vendita della figlia se la sono passata ancora meglio e la madre ha aperto un salone per la cura delle unghie. Più che povertà, qui hanno lavorato attitudini patriarcali, sessismo, avidità e insensibilità. Minh era una studentessa eccellente e manteneva il segreto in modo quasi perfetto. Due delle mie insegnanti alle medie si accorsero in momenti diversi che c'era qualcosa che non andava, ma non riuscirono a collegare quel qualcosa allo sfruttamento sessuale, perché io ero diversa dallo stereotipo della ragazzina abusata. Quando ebbe 18 anni e veniva ancora venduta regolarmente, Minh tagliò di netto ogni contatto con i suoi genitori. Dissi loro che se mi avessero contattata ancora avrei chiamato la polizia. Ma restava un mucchio di lavoro da fare, come Minh ricorda, per sentirsi di nuovo umana. Quando mi prostituivo, mi trattavano come un animale in gabbia allo zoo. I miei movimenti erano limitati e controllati. L'ambiente mi era estraneo ed ero isolata dalle altre della mia specie. Ero una creatura esotica che la gente poteva guardare e toccare se pagava i miei proprietari, se pagava per avere il privilegio di usare il mio corpo per divertirsi. C'è anche un'altra metafora che mi viene sempre in mente. Per lungo tempo ho pensato di essere un'aliena. Ero solo somigliante ad un essere umano. Gli occhi, le braccia, le gambe, la forma del corpo, era tutto simile, ma io non vivevo come un essere umano, non pensavo come un essere umano. La maggior parte del mio lavoro di guarigione è consistita nel riconnettermi alla mia umanità e all'umanità altrui. Ho dovuto imparare o reimparare che ero umana. Lo ero sempre stata e che quelli attorno a me, persino quelli che mi hanno ferito in modo così profondo, erano pure umani. Quando avete a che fare con le sopravvissute all'abuso sessuale, che sono state trattate come oggetti, dovete ricordare che sulla loro umanità si è, al minimo, sputato. Dovete ricordare che la relazione base di queste persone con chi loro sono e con quello che possono aspettarsi dagli altri e con ciò che è possibile in questo mondo è stata danneggiata. Per cui assicuratevi di trattarle da esseri umani, non separatevi da loro. Quando ascoltate le loro storie non pensate, ad esempio, quel che ho passato io è niente al confronto, i miei traumi sono minori. Ciò non vi aiuta a vedere la nostra comune umanità. Trovate le vostre personali esperienze con la disumanizzazione ed esaminatele. In questo modo svilupperete quell'empatia che vi sosterrà e vi renderà quindi capace di sostenere le vittime. Come amate voi stessi? Io non ho bisogno, mi amiate in modo differente. Io, come sopravvissuta, non sono diversa da voi. Voi non siete diverse da me. Trovate una via per connettervi alle sopravvissute. Non c'è necessità di aver fatto esperienza delle medesime cose per immaginare cosa hanno provato. Voi potete connettervi a me anche se non capite. La maggioranza delle persone che sopravvive allo sfruttamento sessuale non si aspetta che lo facciate. Desiderano in primo luogo che le trattiate come esseri umani. E un'ultima cosa. Sopravvissute non è un titolo che definisce interamente ciò che una persona è. Le sopravvissute hanno interessi e abilità, colori preferiti e animaletti da compagnia, speranze, sogni, sofferenze e rimpianti. Proprio come ciascuna di voi, sono persone complesse e sfaccettate. Minha ha usato un'altra similitudine per descrivere il suo cammino di guarigione. Dice che è stato come imparare una nuova canzone, con un testo diverso che rimpiazzasse la vecchia canzone, quella che aveva sentito sino alla nausea durante 15 anni di violenza sessuale. Il mio nuovo testo parla di libertà, di speranza e di amore. Questo lo ricordiamo Maria Grazia di Rienzo. Di storie come quella di Min ce ne sono davvero tantissime e cercheremo di darvi voce, di dare voce a chi è direttamente interessata alla questione della prostituzione perché ne vive sulla propria pelle gli effetti devastanti, senza ideologie, senza travisamenti, senza dimenticare la realtà, perché è da questa realtà che ci si allontana quando si inizia a parlare in modo ideologico della presunta e illusoria libertà di autodeterminazione nella prostituzione. You think you can rhyme over this nigga? You think you can sing over this player? What, you think you can flow over this hustler? You think you can rhyme over this nigga? You think you can sing over this player? What, you think you can flow over this hustler? Oh yeah, I forgot to tell you the rules. By rhyme, I don't mean nursery. Float on me and get your smoke on. Sing means, well, nigga, just sing a song. No Chrissy, no thongs. No baby booze or baby daddies. No tricks, no whips, no weight pushing. And absolutely no platinum or ice. No guns, no lies about your ghetto rep. And please, the term player hater, well, I hate to tell you, but it's played out. So now what you gonna do? Well, let me show you an example of what you could do. Yo, yo, yo, yo. You love love's about to kick this, don't resist this. I'll take 8 bars and flip that shit. Don't get it twisted, now watch me while I rock this. Nah, not the Casbah, been watching you. And I got you dead center in the scope of my world rifle. You're trifling, your mediocrity is stifling, it's frightening. The way you mislead as you succeed, it's a crime that in your rhyme. You can't be both consistent as well as diverse. In one line you fight adversity, the next find you perverse and shitty with your verse sheet. Reduced to ass and titty and we be watching the videos like, the million-dollar glitz breed is doing a big bully blitz creep on the ass and ears, on the ass and ears, on the ass and ears of America. Yeah, that's what I'm talking about. So now what you gonna do with your rhyme, with your flow? So now what you gonna do with your rhyme, with your flow? Well, how about talking about the injustices, the numbers, the blunders of black males in jail? Or why not speak truth about our misguided youth? They're daily dying from thugging and drug selling that leaves them yelling from behind bars. Far from the glamour, you pimp, leaving scars. With that dope cut, you might as well be saying fuck the masses, long as my ass is getting paid. Your mishandling of the mic and music's power is plagued. It's time for change. So what you think? You up for the challenge? You think you can rhyme over this nigga? You think you can sing over this player? What, you think you can flow over this hustler? You think you can rhyme over this nigga? You think you can sing over this player? You think you can flow over this hustler? I demand reparations from all irresponsible, fake mogul, crap music makers and mood fakers. Your bad examples could kill my children's future. But we're here to supply the sutures needed to close the bleeding hole in the soul of black music. Don't misuse it or abuse it. Use it to send positive, not negative messages. Bless the kids with dope but heartfelt lyrics. They need to hear it. You can still be hard and keep regard for your sisters and shorties and human life. See, formidable minds pay the price for your microphone mistakes. So it's either change or be changed. Leggiamo ora l'appello di Bruxelles contro la prostituzione, perché l'analisi del fenomeno che ne esce fuori e gli obiettivi sono da voi assolutamente, sono assolutamente da diffondere. L'appello è stato pubblicato sul blog Femminile Plurale ed è stato tradotto da Maria Rossi, femminista di base e compagna, che ringraziamo. L'appello è il frutto dell'incontro avvenuto il 4 dicembre del 2012 tra diverse associazioni femministe, associazioni che si occupano di tratta e difesa dei diritti delle donne, e ha visto anche la partecipazione di diverse associazioni maschili come Zero Macho e Anti-Pornman Project. Appello di Bruxelles. Insieme per un'Europa libera dalla prostituzione. Considerando che la prostituzione è una forma di violenza, la grande maggioranza delle persone prostituite ha subito violenze, spesso sessuali, prima di entrare nella prostituzione. La grande maggioranza delle persone prostituite subisce violenze di ogni genere nell'ambito della prostituzione, aggressioni fisiche, verbali, sessuali, psicologiche, eccetera. La ripetizione di atti sessuali non desiderati, ma praticati per bisogno di denaro, le disuguaglianze e o lo sfruttamento della vulnerabilità costituiscono di per sé una forma di violenza sessuale. La prostituzione è una forma di sfruttamento delle disuguaglianze. La prostituzione si iscrive nella lunga tradizione patriarcale che rende i corpi delle donne disponibili per l'uso degli uomini. Ad esempio, ius prime noctis, stupro, doveri coniugali. La prostituzione sfrutta molteplici forme di disuguaglianza: il dominio degli uomini sulle donne, dei ricchi sui poveri, del nord sul sud, dei gruppi maggioritari sulle minoranze. La maggioranza delle persone che si prostituiscono all'interno dell'Unione Europea proviene da paesi terzi più poveri. Quando provengono da stati membri dell'Unione Europea, vi è un'ultra rappresentazione delle minoranze etniche. La prostituzione è una violazione della dignità umana. Ponendo il corpo e il sesso nel regno del mercato, il sistema della prostituzione rafforza l'oggettivazione di tutte le donne e dei loro corpi. Si tratta di una violazione diretta dell'integrità fisica e morale delle persone prostituite. La prostituzione rafforza il dominio degli uomini sulle donne, in particolare irrobustisce la sensazione che i corpi delle donne siano disponibili ed accessibili. Sentimento che è presente in altre forme di violenza contro le donne, come lo stupro, la molestia sessuale e la violenza del partner. La prostituzione è un ostacolo all'instaurazione nella società di una sessualità veramente libera, rispettosa ed ugualitaria. Il sistema della prostituzione alimenta e perpetua la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. La prostituzione è una violazione dei diritti umani. La Convenzione ONU del 2 dicembre 1949, adottata dall'Assemblea Generale e ratificata dai 17 Stati membri dell'Unione Europea, afferma nel suo preambolo che la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani a fini di prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana. La Convenzione ONU del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, CEDAW, chiede agli Stati membri di prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere in ogni sua forma il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne. La prostituzione è incompatibile con gli articoli 3 e 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che affermano che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona, e che nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Noi chiediamo agli Stati membri dell'Unione Europea di adottare delle politiche che garantiscano l'eliminazione delle misure repressive nei confronti delle persone prostituite, la condanna di tutte le forme di sfruttamento della prostituzione, lo sviluppo di concrete iniziative e di programmi di uscita dalla prostituzione, il divieto di qualsiasi acquisto di un atto sessuale, l'attuazione di politiche di prevenzione e di educazione per promuovere l'uguaglianza e la sessualità positiva, lo sviluppo di politiche di prevenzione nei paesi d'origine delle persone prostituite. L'Unione Europea e gli Stati membri dovrebbero rivedere completamente le loro politiche contro la tratta degli esseri umani, in quanto è improbabile che possano raggiungere risultati significativi fin quando non venga affrontata la questione dell'impunità degli sfruttatori della prostituzione e dei clienti. خوش نبودیم گوشتایی خود خوردیم تشنا Per quale motivo, ci chiediamo, la voce delle abolizioniste, cioè la voce di coloro che vogliono abolire la prostituzione o in generale vorrebbero sradicarla dalla società, viene interpretata dal fronte contrario, cioè quello anti-abolizionista che sostiene invece una regolamentazione, una normalizzazione, una legalizzazione della prostituzione. Quindi la voce delle prime viene interpretata dalle seconde come moralista, razzista, classista, pregiudizievole e vittimizzante rispetto all'abitudine sessuale delle donne, completamente scollegata dalla realtà che vivono le prostitute e addirittura sprezzante dell'autodeterminazione di queste donne e della loro libertà di scelta a prostituirsi. Ci chiediamo perché viene interpretata in questo modo e ricordiamo che la voce degli abolizionisti l'abbiamo appena letta, cioè quelli ovviamente che hanno poi scritto il manifesto di Bruxelles. I gruppi abolizionisti sono inoltre considerati dagli anti-abolizionisti, dalle anti-abolizionisti, delle lobby, cioè il cui obiettivo sarebbe quello di ostacolare l'attuazione di politiche migratorie nei paesi in cui sono presenti le donne prostituite e in generale nei confronti delle donne straniere. Ora, per rispondere a queste critiche, vorremmo sottolineare prima di tutto che essere contro la prostituzione non significa per noi essere contrarie alla regolamentazione delle donne straniere nel nostro paese o a una tutela generale che può essere poi promulgata a favore delle prostitute. È chiaro che qua non si tratta né di razzismo né di chiusura eccessiva su questo discorso. Le abolizioniste sanno però che la maggior parte di queste donne prostituite, che noi chiamiamo prostituite, che preferiamo questo termine al termine prostitute, chiaramente perché vengono inserite, vengono fatte entrare nel nostro paese e poi costrette con la forza a prostituirsi e quindi prostituite, sappiamo che queste vengono dai paesi poveri del sud del mondo, dall'est Europa per esempio, paesi in cui le stesse istituzioni sociali e culturali sono patriarcali e sono profondamente radicati nel tessuto sociale e che costituiscono, sappiamo, il terreno fertile per il reclutamento di queste donne all'interno del mercato del sesso da parte delle mafie globali e dell'industria del sesso. E noi riteniamo, come normale che sia, che queste donne, che spesso sono l'anello debole della società da cui provengono e della società in cui poi eventualmente vengono inserite, cioè nelle società, nelle stesse società occidentali, non debbano ricorrere alla prostituzione come unica fonte di sostentamento del loro reddito. È chiaro che questo non dovrebbe mai essere l'unica alternativa per una donna. Sebbene invece molte anti-abolizioniste sostengono che dal momento che è l'unica alternativa, allora bisogna sostenere in qualche modo questa scelta e quindi sostenere in generale tutto ciò che comporta la prostituzione. Le abolizioniste non negano che in molti casi la prostituzione venga percepita come l'unica via effettiva, come l'unica via di scampo alla povertà. È vero, questo succede, ma riteniamo appunto che questa non debba essere mai in nessun caso una scelta obbligata per la donna che decide anche volontariamente di abbracciarla, cioè che ci debbano essere comunque altre possibilità per parlare di scelta. perché la prostituzione che le antiabolizioniste affermano che è un lavoro come un altro, in realtà secondo noi non lo è affatto, perché una donna che si prostituisce, e questo secondo le stesse testimonianze delle ex libere prostitute o delle prostitute o delle ex prostitute in generale, almeno una volta nella sua vita è stata vittima di abusi fisici, sessuali, di abusi e di violenze e di stupro. E questi incidenti non possono essere considerati come incidenti sul lavoro, che potrebbero essere eliminati se mettiamo in atto una regolamentazione della prostituzione, ma sono una parte integrante proprio del rapporto commerciale che si instaura, diciamo, fra due contraenti, il prostitutore e la prostituita, che sono contraenti che agiscono sul livello di disparità, di disuguaglianza sociale, politica, economica e culturale. Per molti uomini sembra infatti normale pagare una donna per avere rapporti sessuali con lei, e il fatto di comprare prestazioni sessuali per denaro legittima la stragrande maggioranza di loro a costringere la donna ad avere rapporti violenti, dolorosi, o comunque a essere vittima di violenza fisica e psicologica. Diciamo che è una legittimazione il fatto di comprare tra virgolette prestazioni sessuali. Isoke, che è una attivista di origine nigeriana, abolizionista, che da anni lotta contro la tratta nel nostro paese, in Italia, delle donne nigeriane, delle sue connazionali, e per l'istituzione di leggi che tutelino le donne prostituite nel nostro paese, quindi per lottare contro la tratta, ha affermato che le prostituite in Italia rappresentano lo sfogatoio sessuale degli uomini italiani. Quindi ci chiediamo: che valore vogliamo dare a questa affermazione? Vogliamo fingere che non sia così, che lei non abbia detto una verità? Per quale motivo quindi le libere prostitute ritengono che le libere prostitute o le antiabolizioniste ritengono che le abolizioniste sbaglino quando parlano di clienti violenti, proprio perché non tutti i clienti sono uguali? È come quando negli Stati Uniti, durante lo schiavismo, nell'epoca in cui i bianchi potevano avere per legge e per presunto diritto di superiorità razziale la servitù domestica nera in casa, si fosse detto ai neri di rivendicare il loro lavoro di servitù domestica presso i loro padroni bianchi, ritenendolo l'unica via d'uscita alla povertà, ma forse bisogna aggiungere non dalla schiavitù, forse dalla povertà, ma non dalla schiavitù, e si fosse affermato che nel caso di violenze, di abusi sessuali e vessazioni contro le domestiche nere da parte dei bianchi, il che, come sappiamo, avveniva piuttosto frequentemente, quasi quanto avviene alle prostituite e alle libere prostitute nel nostro paese, sempre se prestiamo fede a quello che dicono e alle testimonianze di cui sono pieni blog e siti internet delle ex libere prostitute. Come se i bianchi non fossero stati ritenuti responsabili delle violenze in quanto gruppo oppressore, né di alimentare in alcun modo la schiavitù dei neri, per l'unica ragione che quelle donne nere si presentavano volontariamente da loro per cercare lavoro. E il paragone quindi tra schiavitù negli Stati Uniti e tra schiavitù attuale, quella sessuale che vediamo sulle strade in cui sono coinvolte le donne dei paesi del sud del mondo, non è peregrino, poiché sappiamo dagli studi di quel periodo e dalla letteratura esistente che, se parliamo di donne nere ad esempio, la stragrande maggioranza di loro era venduta contro la loro volontà, così come succede adesso con le prostituite, e spesso stuprata e abusata, e che alcune di loro invece consideravano i padroni bianchi fondamentali per il loro sostentamento, come invece ci dicono che dovrebbe essere la realtà, dovrebbe essere così come ci dicono le prostituite. All'epoca si disse: i neri erano vittime della mentalità da schiavi. Potremmo affermare la stessa cosa oggi delle donne che rivendicano il libero esercizio della prostituzione? La stessa esistenza della prostituzione nella storia è uno dei paradigmi dell'inferiorità femminile. Per quale motivo allora le persone che vengono prostituite o che si prostituiscono volontariamente sono per la stragrande maggioranza donne? Cioè, perché non noi non vediamo uomini sulle strade, almeno parliamo di prostituzione come la intendiamo e come la vediamo e come ne sentiamo parlare? E per quale motivo, nonostante il dato irrisorio che la prostituzione maschile, cioè esercitata da uomini per le donne, sia in aumento in alcuni paesi caraibici, la stragrande maggioranza comunque dei clienti, dei prostitutori o anche prostituenti, come si chiamano ultimamente, dell'industria del sesso e della tratta di donne e bambine sono comunque uomini, per quale motivo l'istituzione della prostituzione, che è onnipresente in tutte le società patriarcali, con la globalizzazione si sta allargando a macchia d'olio in tutti i paesi del globo, non c'è un solo paese in cui si può dire che non esiste la prostituzione, tanto da diventare il secondo mercato più florido al mondo dopo quello delle armi e più florido di quello della droga. In paesi per esempio come la Cambogia e la Thailandia, come abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti, il governo prolifera con l'istituzione di bordelli di Stato in cui vengono prostituite bambine di 9, 10 e di 11 anni. Si dice che il Messico sia un arcostato, come sappiamo, allora la Thailandia è uno stato bordello. Per quale motivo in Europa oggi si sta riaprendo il dibattito sulla prostituzione quando pensavamo che negli anni successivi o comunque negli stessi anni della seconda ondata femminista sembrava che questo argomento fosse destinato a morire e che le femministe non si dovessero più occupare in modo così massiccio, importante e coinvolgente di prostituzione? Perché se la prostituzione non fosse la miniera d'oro, che in realtà è per stati, mafie, affaristi, faccendieri, industriali e imprenditori, e se non sfruttasse il secolare assoggettamento della classe delle donne rispetto a quella degli uomini, che sono in verità gli uomini, parliamo, l'unico motore che tiene in piedi l'attuale mercato del sesso globale, senza questi due elementi, cioè l'economia e la cultura patriarcale, maschilista, la prostituzione sarebbe probabilmente un fenomeno residuale e la stragrande maggioranza delle donne si opporrebbe ad essa e non la rivendicherebbe più come un diritto, almeno non come un diritto. Negli Stati Uniti, dopo l'abolizione della schiavitù, nessun uomo o donna nera, allora come oggi, rivendicherebbe il suo status di schiavo e invocherebbe la tutela dello Stato per ripristinare quelle stesse condizioni di schiavitù. E le abolizioniste, poi, c'è da dire che non sono proibizioniste, come si pensa, come è stato scritto su alcuni blog o siti contro le abolizioniste stesse, nel senso che non vogliono che si impedisca la prostituzione, cioè non vogliono impedire alle donne di prostituirsi, ma sostengono l'abolizione, lo sradicamento della prostituzione in quanto istituzione e dunque contrastando un eventuale sostegno della prostituzione ovviamente da parte dello Stato e il suo sfruttamento da parte delle mafie o cercando di sottrarla a qualsiasi altro tipo di regolamentazione che la metta sullo stesso piano di altri lavori, perché non la consideriamo un lavoro, e soprattutto criminalizzando il cliente prostitutore o comunque in qualche modo perseguirlo e ritenendo che, non si possa comprare sesso o impedendo la mercificazione dei corpi, intendono combattere alla radice ciò che rende la prostituzione un'istituzione patriarcale e uno degli strumenti globali usati per mantenere e rinsaldare le disuguaglianze sessuali, sociali, politiche ed economiche che esistono e che sono sempre esistite tra uomini e donne. Since my daddy gone, but I've too long if I just could hang on until my misery would all be gone. Chiudiamo oggi con un passo di Monique Wittig, in cui si esprime sulla pornografia in The Straight Mind. Dice: le immagini pornografiche, i film, le foto delle riviste, i manifesti pubblicitari sui muri delle città costituiscono un discorso, e questo discorso copre il nostro mondo con i suoi segni. E questo discorso ha un significato, significa che le donne sono dominate. I semiotici possono interpretare il sistema di questo discorso, descrivere la sua disposizione. Ciò che essi leggono in quel discorso sono segni la cui funzione non è di significare e che non hanno altra ragione di essere eccetto quella di essere elementi di un determinato sistema o ordine. Ma per noi questo discorso non è separato dal reale, come lo è per i semiotici. Non solo esso mantiene rapporti molto stretti con la realtà sociale, che è la nostra oppressione, economicamente e politicamente, ma è anche reale in se stesso, poiché è uno degli aspetti dell'oppressione, poiché esercita un preciso potere su di noi. Il discorso pornografico fa parte delle strategie della violenza che viene esercitata su di noi. Esso umilia, degrada, è un crimine contro la nostra umanità. Come tattica di vessazione ha un'altra funzione, quella di un avvertimento. Ci ordina di rimanere in riga e ricorda a quelli che tendono a dimenticarlo di stare al passo. Richiama alla paura. Gli stessi esperti di semiotica a cui mi riferivo prima, quando noi facciamo manifestazioni contro la pornografia, ci rimproverano di confondere i discorsi con la realtà. Essi non vedono che questo discorso è la realtà per noi, una delle facce della realtà della nostra oppressione. Credono che sbagliamo il livello dell'analisi. Ho scelto la pornografia come esempio perché il suo discorso è il più sintomatico e il più dimostrativo della violenza che ci viene fatta attraverso i discorsi, in tutti gli ambiti della società. Non c'è niente di astratto nel potere che le scienze e le teorie hanno nell'agire materialmente e attualmente sui nostri corpi e sulle nostre menti, anche se il discorso che producono è astratto. Don't you know I tried, cried, cried, you know how I cried, and baby, I've been missing you, yeah. Don't you know I tried. Siamo arrivate anche stasera alla fine della trasmissione. Se volete condividere le vostre riflessioni su quanto detto questa sera o su altro, potete scriverci all'indirizzo connettive@gmail.com. Vi diamo appuntamento fra quattro settimane, sempre con la nostra rubrica Controessenze. Buona serata. Thank you.